Bonjour, bidon, settima puntata. E allora buongiorno, benvenuti alla settima puntata di Bonjour Bidon. Io sono Leonardo Piccione e accanto a me dovrebbe esserci Angelo Trofa. Angelo, sveglia, ci sei? Sì, siamo in diretta, è la settima puntata di Bonjour Bidon da Cagliari. Ma 5 minuti cosa? Ma 5 minuti. Ma è da ieri pomeriggio che stai dormendo. È da ieri pomeriggio che sei abbioccato. Sono le 11:21, siamo in ritardissimo. Ma chi arriva? Ma sono arrivati, ha vinto Kitter. Sono già arrivati. Sono arrivati, sì. Io ho chiuso gli occhi un minuto. È dalle 3:30 di ieri pomeriggio che stai dormendo. Scusate, buongiorno. Ma non parlare male, non pensare male della Francia e dei francesi. Ieri hanno proprio detto che entro il 2040 bandiranno le automobili a benzina. Quindi vogliamogli bene, parliamo bene della Francia e del Tour de France. Vabbè, ne parliamo bene. Se volessero fare veramente una cosa fatta bene, bandirebbero le tappe come ieri. Ma no, dai, sì. Però vabbè, comunque, con tutto l'entusiasmo che ha caratterizzato la nostra visione della tappa di ieri, tantissimo entusiasmo, siamo pronti per iniziare. Ale! Ed ecco, benvenuti a Bonjour Bidon. Noi siamo Angelo Trofa e Leonardo Piccione, siamo in diretta da Cagliari. Prima di iniziare con i nostri argomenti ameni e brillanti, abbiamo però un piccolo saluto da fare. Sì, un saluto e un abbraccio doveroso a Claudia Cretti, che ieri è caduta durante la settima tappa del Giro d'Italia femminile. Si è fatta molto male, questa notte è stata operata al cervello e ancora in prognosi riservata. Noi non possiamo fare molto, noi cerchiamo di scherzare, di essere leggeri, però almeno avevamo voglia di mandarle un abbraccio, la nostra vicinanza e quello che possiamo fare. Prima di iniziare con le nostre stupidate, volevamo salutarla. Assolutamente, noi scherziamo, però dobbiamo sempre ricordare che il ciclismo è uno sport estremamente pericoloso e questi ragazzi, perché sono giovanissimi e queste ragazze, quotidianamente rischiano la vita per divertirsi e divertirci. Noi di questo siamo grati e credo che dovremmo ripagarli con maggiore attenzione e con condizioni più sicure per tutti, soprattutto per loro. È vero, e noi proviamo a ripagare tutti anche col nostro modo semplice di raccontare il Tour de France, e cominciamo a farlo dalla tappa di ieri, nonostante tu non l'abbia vista perché eri impegnato a fare altro sul divano. Era mortale, una tappa veramente noiosissima. Però secondo me invece Filippo non è d'accordo, perché lui ieri mi ha detto aspetta, che si è divertito. Aspetta Leonardo, ti devo insegnare tutto. Filippo ormai è grande e ha diritto al suo stacchetto introduttivo. E va bene, quindi, allora Filippo. Filippo Cauz da Milano, buongiorno Filippo. Hai stacchettato? Stacchettato. Perfetto, buongiorno, buongiorno. Ciao, mi dici perché ti sei divertito ieri? Perché quello che ho imparato ormai negli ultimi tot anni, non so dirti il numero esatto, è che le cose belle del tour non sono mai nella corsa, ma sono nel contorno della corsa, e queste tappe qua alla fine sono quelle che ti offrono più sorprese, più ragioni per stare a guardare la televisione che non le tappe, che ne so, di montagna, dove invece magari ti concentri sulla corsa e non succede niente fino a 2 chilometri dall'arrivo. Illuminaci Filippo, cosa intendi? Illuminaci. Facci qualche esempio. Intendo, non so se poi ne abbiamo anche in grafica o che, ma intendo il grandissimo spettacolo di coreografia, ad esempio, che ha accompagnato la tappa di ieri e che sta accompagnando questo tour, in cui vedo una maggior creatività, un maggior impegno. So che ci sono anche altre ragioni oltre all'accoglienza verso il Tour de France. Ma ieri abbiamo visto dai grandi classici come cavalli e trattori che seguivano la corsa, o il ciclista che pedala sul filo con grande gioia di Martinelli e Pancani, ha un grandissimo impegno nella creazione di mega coreografie su cui spopola e si nota proprio l'impegno del nostro sponsor, che sta investendo tanto in questo tour, riconosciamoglielo, nell'investimento sugli orologi. Le campagne francesi sono il filo narrativo di queste tappe. Sono piene di orologi. Sì, sì. Credo che dovremmo dedicare una tappa apposita, una puntata apposita agli orologi, con grande fantasia. Con grande piacere. E invece la volata, Kittel dominato abbastanza tranquillamente, meno spaventosa della volata scorsa, quella di oggi. Sì, un po' incasinata ieri. Anche ieri, io non ho capito assolutamente cosa ha combinato Boston Hagen. perché si è fatto 500 metri in testa al gruppo come se volesse fare una sparata, ma senza fare la sparata. Forse per far vedere lo sponsor, ma lo sponsor è anche sponsor del tour, per cui è già sempre in sovraimpressione, per cui avvisatelo che non deve dannarsi così tanto. E la volata abbastanza incasinata, si è visto come, come il buon Kittel abbia capito e previsto questo destino, forse non l'aveva previsto ma è stato bravo a interpretarlo, ha lasciato che i velocisti si dannassero dal lato della strada. Lui è talmente più potente, talmente più forte in questo momento che può fare la volata da solo senza dover stare in scia a qualcuno, l'ha fatta da solo a centrostrada, ha stravinto molto più di quello che sembrano le immagini, che sembri guardando le immagini, e a me sembra anche un po' che gli sia diminuita l'acne con questo sport. Alici? Angelo non è d'accordo. Angelo sulla bellezza di Kittel ha sempre dei dubbi. No, guarda, che Kittel sia bello io lo dico. Sull'acne di Kittel io vi invito ad andare a vedere le immagini dopo il traguardo, l'intervista, e lì in fronte secondo me qualche problema di acne ce l'ha. Però la notizia vera di oggi è che prima della diretta avevamo qui con noi alcune ragazze che ci dicevano che secondo loro Kittel non è bello, e lì ci si è squarciato il velo di Maya, abbiamo scoperto che quello che noi pensiamo della bellezza maschile in realtà è tutto il contrario. No, intanto chiariamo chi erano queste collaboratrici e ragazze che erano con noi stamattina in redazione. Magari uno può pensar male, non lo so. No, assolutamente, siamo una redazione composta da maschi e femmine, si chiacchierava della bellezza di Kittel. Le collaboratrici ci hanno detto che Kittel forse non è così bello come non ci è sembra. Così bello. Faremo una rubrica, no, sulla bellezza dei corridori. Assolutamente, pensa che io l'ho odiato tutta una vita perché lo invidiavo. Hai sprecato tempo, mi sa. Parliamo... Ma però anche la rubrica sui ciclisti brutti poi, che sono certo, una quella, grande passione. Quella sarà tua, te la affidiamo già. No, un'altra cosa sulla volata di ieri. Mi hanno colpito le dichiarazioni di Matthews, che è arrivato anche ieri, settimo, ottavo, non ricordo, e ha detto: io non riesco a competere con i più forti perché semplicemente i primi due o tre di questo tour in volata sono quelli che sono disponibili, disposti a rischiare la vita in queste volate. Io attualmente non lo sono, ha detto Matthews ieri. Non so se è un buon segno per un velocista. No, non lo è, se non sei pronto a rischiare nelle volate, se cominci a tirare i freni già non sei più un velocista. Matthews è fortunato perché ha talmente tanto talento che può mettersi a fare altro e continuare a vincere in bicicletta. Ma è meglio che ci si dedichi da subito. Ma addirittura, ma può essere l'impressione di alcuni, mia in particolare, è che queste volate di questo tour in particolare siano più pericolose del solito, o è solo un'impressione appunto? Pensi che sia obiettivamente così o no? No, sì, allora, non ci sono grandi treni organizzati e questo è un dato di fatto. Questo pesa sull'economia della volata. I velocisti di oggi, ne abbiamo già parlato l'altro giorno, forse non sono più avvezzi a questo tipo di volate. Dopodiché io credo che incida molto il fatto che questo tour è zeppo di tappe per velocisti. Quasi la metà delle tappe finiranno in volata e questo aumenta la tensione, perché lo sgarbo, anche solo l'attacco che ti sei fatto oggi, lo puoi restituire domani. È un continuo stare sul filo del rasoio, e questo non aiuta, questo crea tensione naturale. Assolutamente. Sì. Diciamo che lo sgarbo e lo screzio ci introducono la prossima rubrica, dove continueremo a parlare della corsa, ma da un punto di vista un po' particolare, ovvero da quello che pensano gli stessi corridori, da quello che vedono gli stessi corridori in corsa e nella loro vita con i loro 5 T dalla corsa. Non c'era lo stacchetto qui, vabbè. Ormai lo stacchetto è solo per Filippo. Solo Filippo ha diritto allo stacchetto. Ovvero, abbiamo qui alcuni tweet, alcune immagini di Instagram postate dai corridori. La prima... Fammi sottolineare una cosa. Questa è un'immagine di Instagram Direct, credo, non lo so. Comunque le dirette Instagram, sì. Io non sono espertissimo. I nostri collaboratori, non le collaboratrici, i collaboratori, in particolare Filippo Pelacci e Paolo Bontempo, vanno a spulciare addirittura nelle dirette brevi che fanno i corridori su Instagram. Quindi un saluto e un ringraziamento anche a loro. E hanno trovato ieri questa qui molto carina di Kittel. È un'immagine del phone di Kittel, un oggetto che noi pensiamo lui utilizzi molto, già che ha i capelli sempre perfetti, anche sotto il casco. E purtroppo il phone di Kittel, ci informa lo stesso proprietario, che si è rotto, non ha retto alla seconda vittoria. Ha preso fuoco proprio dopo la seconda vittoria al tour. Come l'animo delle sue fan ha preso fuoco. Forse. Come... Comunque potete guardare questa immagine adesso in diretta se siete su Facebook o dovunque voi siate, le stiamo mandando, quindi guardatele se avete voglia. Andiamo avanti con un altro cinguettio dalla corsa, ovvero abbiamo Jacopo Guarnieri, protagonista di una delle cose più divertenti della giornata di ieri, ovvero voi ricorderete che in diretta televisiva, subito dopo l'arrivo, ha rilasciato un'intervista dove ha usato delle parole diciamo, colorite nei confronti di... Colorite. Nei confronti. Ha detto che è un coglione, Buoni. Semplicemente. Non solo, anche, penso, ha detto stupido. No, è stata bellissima quell'intervista, perché all'inizio a caso ha detto è un deficiente. E l'intervistatore ha detto, ma come? Gli ha rimesso il microfono e ha detto è un cretino. L'intervistatore di nuovo, ma perché cosa è successo? E lui ha detto è un coglione. È un climax, un ascendente. Non so se in quest'ordine, però... Più o meno. Siamo in Francia, i francesismi... Adesso... Noi sappiamo che Buoni ha un animo gentile e sarà offeso da queste parole e quindi probabilmente si chiuderà in se stesso. No, invece su Twitter non si è chiuso su se stesso, perché ha scritto: ehi Jacopo Guarnieri, se l'hôpital qui se moque de la charité là, che vuol dire, modo di dire francese per dire da che pulpito viene la predica, no? E poi gli ha detto: guarda l'ultimo chilometro di ieri e di oggi e poi ne parliamo, no comment, ha detto Guarnieri, Buoni. E Guarnieri poi ha chiesto scusa con questo bellissimo tweet: chiedo scusa, le parolacce in TV non si dicono. Quindi, visto i toni della discussione, è l'ultimo chilometro di oggi che sarà interessante vedere. Spero ovviamente che, come dei professionisti quali sono, non succeda niente. Ma grandi professionisti invece, esatto, sono altri due protagonisti. Per una guerra che comincia ce n'è una che è finita. Assolutamente. Abbiamo infatti i tweet bellissimi di ieri tra Cavendish e Sagan, sì, che incominciano con un tweet di Sagan dove mostra due fotografie, una dei campionati mondiali, se non sbaglio, dove sì, Sagan vince e Cavendish si vede dietro deluso, e un'altra sotto dove invece c'è la stessa situazione inversa, in cui dove vince Cavendish vince e Sagan è dietro. È stato molto carino Sagan, perché ha detto: Mark, riprenditi presto, preferisco una situazione come la prima, cioè la tappa, la corsa in cui vince lui piuttosto che la seconda, però non vedo l'ora di incontrarti di nuovo. Cavendish ha ritwittato le foto di Sagan dicendo: che classe, orgoglioso di conoscerti Peter, ci vediamo presto amico, mate, ha scritto lui. Questo per dire semplicemente che tante discussioni, tante chiacchiere poi a volte si risolvono banalmente e molto, in modo molto elegante tra i corridori. A questo proposito volevo prendermi il mio momento alla Beppe Conti, perché tanto tempo che ed è subito Radio 3 non me lo dedicavi. Perché a proposito di amicizie e di rivalità in corsa, io ho trovato questa storia bellissima del giro del tour del 38, che era l'ultimo tour di Antonin Magne e André Leduc, due corridori francesi, tutte e due vincitori di due Tour de France a testa, rivali tra loro, che all'ultimo Tour de France, all'ultima tappa del loro ultimo Tour de France, vanno in fuga insieme. Ah. Vanno in fuga insieme e all'arrivo, è la loro ultima corsa, sulla linea d'arrivo si abbracciano, tagliano il traguardo insieme davanti ai 50.000 spettatori del Parco dei Principi di Parigi, e la giuria cosa decide di fare in questo caso? Assegna la vittoria di tappa ex aequo a entrambi. Oh, i due rivali che concludono insieme la carriera al tour e ottengono la vittoria di tappa ex aequo. Magari anche Cavendish e Sagan potranno abbracciarsi in corsa e tagliare insieme il traguardo. Non so di quale corsa, ma... No, mi ha ricordato... È una scena che ci aspettiamo a questo Tour de France da... Non sono rivali, ma sono grandi amici, da Chavanel e Leclerc. È vero, magari andranno in fuga insieme. La carriera al Tour entrambi, due leggende del ciclismo francese contemporaneo, e io mi aspetto una fuga insieme di loro due, sarebbe... E lì ci commuoveremo tutti quanti. Andiamo avanti con un altro tweet, e qui è il momento, anzi no, mi sa che è un'immagine anche questa Instagram... È il momento di noi genitori che ci commuoveremo nel vedere questa immagine, ovvero abbiamo la figlia di Van Avermaet, certo, che con l'immagine del padre stampata su un giornale, che veramente sente la sua mancanza e sta imparando a mangiare, e in bocca la fotografia del padre con un cucchiaino giallo. Ecco. Che bella, questa foto è veramente una delle più belle viste sui social finora. Assolutamente, sono d'accordo. E poi è una foto che vale una frase fatta. Come, scusami? Praticamente, è una foto che vale una frase fatta. È una foto fatta. Molto lunghe, bisogna stare attenti all'alimentazione. Ah, vero, vero, verissimo. Assolutamente. Verissimo. E in queste giornate molto calde bere quasi in continuazione. Anche. No, tu hai anticipato una cosa importante. Oggi premieremo la frase fatta vincitrice del nostro Vox Populi. C'è molta trepidazione nel nostro pubblico. E infine, l'ultimo tweet di questa rubrica, abbiamo finalmente, cominciamo a parlare della Lanterne Rouge. In questo momento è Legac, che è Olivier Legac della Française des Jeux, che è ultimo in classifica, ha un problema intestinale, credo, da un po' di giorni. Comunque non sta bene, arriva quasi sempre dopo il gruppetto. E è meglio che arrivi dopo. È meglio che arrivi dopo. E ha mostrato ieri su Twitter questa lanterna rossa. Com'è la lotta per l'ultimo posto, Filippo? Già si sta delineando o è presto? Beh, c'è le GAC in fuga, però appunto in queste situazioni qua lascia sempre un po' a desiderare la classifica, è destinata a rimescolarsi sicuramente. Io non penso che le GAC arriverà a Parigi in quella posizione, cioè o si riprende o non finisce il tour. Alle sue spalle un po' si sta delineando secondo, però con già un quarto d'ora di distacco c'è il mitico Tom Laser. Ah, Tom Laser! Di vedere in maglia iridata quest'anno dopo questo. Esatto, esatto. Penso che non sia mai successo che un corridore indossa la maglia iridata e porta la lanterna rouge contemporaneamente, avrebbe potuto anche essere qualcosa di storico. E poi beh, è una classifica ancora abbastanza aperta, leggendola, cioè, dopo questo vuoto tra le GAC e Laser, poi in 10 minuti sono in tanti, vedo che c'è Marco Haller che potrebbe fare delle scene leggendarie tra Shampoo e lanterna rossa. Che sono un po' lontani i nostri favoriti, soprattutto Cimolai che è undicesimo in classifica e però penso che rimonterà, probabilmente in coppia con Guarnieri, anche loro potrebbero arrivare ex aequo. Io però faccio presente e chiudo con il settimo posto nella classifica della Lanterna Rouge, perché forse abbiamo trovato il ruolo da dare al corridore che stiamo nominando tutti i giorni, ovvero Juraj Sagan. Ah, fantastico! Che ha 24 minuti dalle GAC e può rimontare e... insomma, potrebbe essere questo il segno che lascia Sagan su questo Tour. Uno dei due Sagan. Però dopo il weekend certamente avremo le idee più chiare, sia per la parte alta che per diciamo quella che bassa. In questa tappa non capiamo chi può perdere il Tour, ma possiamo capire chi, chi non può svelare cose, non svelare cose. Ma è il momento in cui dobbiamo pagarci la pagnotta. Sì, assolutamente, puntuale come il pagamento delle tasse, arriva la nostra pubblicità. Ascoltatela. Nonno, la sai la storia degli orologi sbagliati del Tour de France? Certo, piccolina. Era il 1959 e il Tour de France produsse degli orologi d'oro. Ma poi li ritirarono, perché gli orologi... avevano al posto del numero 12 il 13. Ma se sai già tutto, nonno cosa ci sta a fare? Mi fai un regalino? La collezione degli orologi d'oro sbagliati prodotti dal Tour de France in edizione limitata. Chiamate all'850 50 80 90 60 70 80. Tutti riceverete in omaggio il volume sulla storia del punto a croce. 850 80 90 60 70 80. Ma questa era la mia battuta. Sì, nonno, ma eri lento. Mo ti riporto da tua madre. Ma io voglio sapere come prosegue questa vicenda, perché secondo me tra il nonno e la nipotina le cose non vanno a finire bene, c'è una tensione che si intuisce. Sì, sì, non sottovalutare il nostro sponsor che ha già pensato delle varianti della prosecuzione sponsor. Della storia, non vedo l'ora di ascoltarla. È uno sponsor nobile. Ma adesso andiamo a piesso spinto verso una nuova rubrica, voi sapete, una nuova rubrica per la nostra radio. Ma vecchissima. Per Bidon, voi come ricorderete Bidon in francese vuol dire borraccia, e il nostro Bidon Contest, ovvero come i corridori si relazionano alle borracce e quanto è fondamentale trasportarle e portarle. Comunque, è arrivato il momento del Bidon Contest. No, non c'è lo stacchetto, ce l'ha soltanto parte lui. A caso lo stacchetto. Parte quando decide lui, va bene, saremo veloci, abbiamo solo tre immagini da mostrarvi. La prima è questa di un fotografo che si chiama Maxime Muller, che ha fotografato 150 borracce, quelle che la Direct Energy distribuisce giornalmente in questi giorni di caldo. Guardate che bella foto, la macchina fotografica, le borracce, un'immagine che ci piace un sacco. Fotografate di più le borracce. Assolutamente, anche perché ieri è entrato il tema del caldo, un tema fondamentale nel Tour de France, e ieri ha fatto il suo grandissimo ingresso nelle dirette televisive, perché ieri per lo più credo l'85% si è parlato del caldo e dei trattori e degli orologi. Assolutamente. A proposito del cardo, ci abbiamo la seconda immagine. Mettere il caldo davanti ai buoi. questa immagine però è della tappa della Planche des Belles Filles, e c'è Arnaud Demare che veste la maglia verde e che trasporta borracce. Il capitano nelle tappe di pianura si trasforma in gregario e porta un bel po' di borracce ai suoi capitani, e quindi ci piacciono sempre anche questi cambi di ruolo dei capitani che diventano gregari. E ne porta poche, a dire, io ne ho contate quattro. Certo, rispetto al record del Giro d'Italia che ne abbiamo documentato, questo è un dilettante. Però è Demare, non è un gregario lo vero. Lo dici come se fosse una cosa negativa essere essere De Mar. È De Mar, che vuoi da, da uno che è De Mar. Passiamo all'ultima immagine del bidon questa contest. Direttamente da ieri, c'è Laurent Pichon che è partito a un certo punto cercando di raggiungere i fuggitivi, non ce l'ha fatta, è stato ripreso dal gruppo, però c'è almeno è riuscito a mostrarci questa bella borraccia rossa tenendola tra i denti, con il gruppo sullo sfondo, le campagne ai lati, una foto che ci è piaciuta e ve l'abbiamo voluta mostrare. Segnalateci anche se trovate delle immagini di borracce, di corridori alle prese con l'acqua in generale, e ci fa piacere mostrarle. Ma è arrivato il momento del gentile pubblico, perché voi ricorderete adesso... che qualche giorno fa vi abbiamo lanciato una sfida, abbiamo lanciato una sfida tra me e Leonardo Piccione, e anche a voi vi abbiamo chiesto di segnalarci le frasi fatte, della diretta ciclistica, che noi aspettiamo. Ve le abbiamo proposte, voi avete avuto modo di votarle e siamo pronti per sentire la Vox Populi. No, niente, non c'è lo stacchetto, neanche nella Vox Populi. Va bene, comunque. Devi dire la parola, ma dire Filippo in collegamento con noi, secondo me parte. Parte lo stacchetto, va bene. Comunque, avete avuto modo su Facebook di votare quali sono le vostre frasi preferite. Grazie per aver votato. Adesso e abbiamo una top 3 con un intervento di un attore professionista che le leggerà in maniera egregia, quale solo lui sa fare. Abbiamo. Presentiamolo un attimo. Sì, abbiamo con noi Felice Montervino che interpreterà le tre frasi vincitrice. Partiamo dalla terza in classifica. Ma ciascuno di questi corridori sarebbe capitano in un'altra squadra. E questa è la frase terza classificata. Ha avuto molti voti, ma non sufficienti per poter ambire all'alloro del primo. Passiamo alla seconda classificata. Beh, vi sconsigliamo di imitare queste posizioni perché loro sono dei professionisti, eh. E questa è una frase che verosimilmente sentiremo nelle prossime tappe. Sabato e domenica. Sì, certo. Domenica questa la sparano. Ma rullo di tamburi, tensione crescente, perché è arrivato il momento della prima frase classificata, ovvero quella più votata da tutti, che tra l'altro ho proposto io, quindi mi rende vincitore, ed è la frase che tutti siamo emozionati quando sentiamo. Anche se non l'ho detto in italiano, la frase vincente è... Domani non scopriremo chi vince il tour, ma capiremo chi può perderlo. E vai con l'applauso! Questa mette i brividi, poi letta da Felice ancora assolutamente, di più. Assolutamente, abbiamo le tre frasi vincitrici, io sono il vincitore perché l'ho proposta io questa frase, sono Vabbè, qualcosa te la dobbiamo far vincere anche a te in qualche modo. In che senso? Io ho vinto il pane ieri per il pronostico. Ah, in quel senso, in quel senso. No, beh, poi però lanceremo domani o nei prossimi giorni un nuovo Vox Populi su altre frasi, poi vi raccontiamo meglio cosa, ma state pronti a votare anche nei prossimi assolutamente. Giorni. Assolutamente. Adesso è arrivato il momento di tornare alla corsa. Sì, corre anche oggi, mi sembra. Sì, quella di oggi pure sarà dura, credo, ma comunque per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da oggi diamo la parola a Pietro Pisaneschi e al suo La Tappa che verrà. Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della settima tappa di questo Tour de France 2017 da Troyes a Nuit-Saint-Georges per 213 km. Il quarto arrivo che nelle previsioni degli organizzatori di questa Grand Boucle dovrebbe essere riservato alle ruote veloci, agli acrobati delle volate, ai funamboli dello sprint. Il traguardo odierno è posizionato nel cuore della Borgogna, sarà dunque una tappa che, come accade ormai da anni al Giro d'Italia con le cronometro immerse nei vigneti, omaggerà il vino. La tappa infatti si concluderà a Nuit-Saint-Georges, cittadina di 5.000 abitanti, e vino per così dire letterario, visto che compare citato anche nel romanzo di Jules Verne Dalla Terra alla Luna. Una tappa che, come detto, dovrebbe favorire velocisti, anche se la distanza e la parte centrale leggermente mossa potrebbero tentare le mire di affermazione da parte di un gruppetto di fuggitivi. L'unica difficoltà altimetrica di giornata è rappresentata dalla Côte d'Ursy, 2.5 km al 4.2%, ma lontanissima dal traguardo, all'incirca 70 km da Nuit-Saint-Georges. Se residua una flebile fiammella di speranza per i fuggitivi, il mio pronostico odierno è tutto orientato verso un'altra volata. Marcel Kitter, il favorito dopo le precedenti due affermazioni, De Mar e Greipel, seguono a rota nella realtà come nei pronostici. Buoni, dopo lo screzio e le parole di Guarnieri da buon ex pugile, potrebbe sentire profumo di rivalsa, mentre è da tenere sempre sott'occhio il nome di Christoph. L'appuntamento ovviamente è a domani con la presentazione della tappa numero 8 di questo Tour de France. Vi invito a seguire il post-tappa ovviamente su Bidon e a cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P, au revoir. Sì, allora, anche Pietro oggi mi sembrava un po' assopito. Forse ha registrato l'audio dopo la tappa di ieri, o durante. Filippo, chi vince oggi? Volata di nuovo? Kittel di nuovo? Sì, basta. Potrebbe, cioè oggi io penso che ci sarà, la fuga prenderà anche un po' di spazio, ma poi la riprenderanno, se volete possiamo anche ragionare sui nomi che possono andare in fuga, ma poi no, preferiamo immaginarceli e scoprirli quando accenderemo la TV. Look Perichon, che è sempre l'uomo per la tappa qua, in realtà voi parlate di sonnellini, io volevo segnalarvi già da un paio di giorni questa cosa e ne approfitto. Perché se c'è una cosa che non si può, una cosa che non si può fare ai francesi, soprattutto sul Tour, che non siano autoironici. E se c'è Le Monde, ha fatto questo speciale sui sonnellini al Tour de France, basandosi sulle teorie dello studioso Damien Leger, che non so chi sia, che sostiene che la durata ideale di un sonnellino è di 20 minuti. Sì. Allora loro hanno preso i cicchemi di ogni tappa, li hanno divisi in tranche da 20 minuti e in base a un classico sistema cromatico hanno segnalato come uno può organizzarsi anche le sue sveglie e quando dormire, quando svegliarsi nel corso della tappa del Tour de France. È perfetto, c'è tempo per sonnellini, dopo vi metto il link, ma lo metto nei commenti qua della... E dici della solo presenza. Oggi fino a che ora si può riposare? Oggi c'è ampio spazio di sonnellini, altro che 20 minuti, si può andare tranquilli, anche perché è una tappa bella lunga, per cui oggi si dovrà proprio alla grande. C'è segnato giusto un sussulto intorno alle 14.47 per il traguardo volante. Ah, giusto, un sussultino. Al netto dei ritardi, però insomma, fino alle 14.47 potete dormire senza problemi. Volendo potete andare avanti a dormire, c'è un GPM a un certo punto, però è un GPM di bassa categoria comunque. Potrebbe esserci un piccolissimo risveglio tra le 4:20 e le 4. Poi una bella dormita fino alle 5:15. 5:15, quando... Entra in azione i treni e lì si... che si può svegliare. Quindi per la Angelo, fissa la sveglia 16:45, così almeno oggi l'arrivo te lo vedi. Filippo, noi ti ringraziamo. L'ultima cosa sulla tappa di oggi. Ditemi. Come? La tappa di oggi abbiamo detto Kittel. Sì, Kittel. Anch'io credo Kittel, però ho letto da qualche parte che qualcuno prevede del vento nel finale e propone un arrivo tipo Montpellier l'anno scorso con Froome che ci prova, però c'era Sagan l'anno scorso e non sappiamo se ci sarà il vento, comunque è una speranza. Se c'era sì questa ipotesi di vento, però non è che siamo sul mare, poi esatto, è una tappa così lunga. Io appunto mi aspetto che la fuga oggi, negli ultimi giorni gli sta sempre lasciando solo 3-4 minuti. Oggi mi aspetto che gliene lasciano 10, anche perché ci sono un po' di asperità nella prima parte, per cui magari il gruppo ha voglia di riposarsi. Credo che anche loro abbiano un po' sfruttato lo schema di Le Monde, per cui faranno dei tifosini anche in gruppo, e poi a un certo punto, poi gli ultimi 5 km sono tutti rettilinei, per cui sarà una volata oggi forse anche con i freni, una volata classica. Vedremo, noi abbiamo una rubrica che incombe, ti salutiamo e ci sentiamo domani, buona tappa, buon riposo magari, buon tour. Buona tappa e buoni sonnellini a tutti quanti, guardate le coreografie. Ciao. Angelo. Parlando di coreografie e parlando di bellezza, è arrivato decisamente il momento dell'appuntamento più atteso, più bello, più emozionante del nostro programma. Come vi ricordiamo che noi abbiamo inviato ragazza, un'autrice, una poetessa a seguire il tour, Fiammetta Ruyu, che ci manda quotidianamente i suoi resoconti che sono molto amati da tutti, anche da Leonardo. Leonardo, ascoltiamolo. Diamo la parola a Fiammetta Ruyu con i suoi resoconti ocra. Questa musica ogni volta. Questa è la musica. Questa storia inizia dove il cielo incontra la terra. La terra incontra la vigna e la vigna incontra il cielo. Cielo, terra e vigna si incontrano, ma il cielo resta diffidente perché nota che la terra quando incontra la vigna è un po' più calorosa. Il cielo continua a incontrare la terra e la vigna, ma sotto sotto ci rimane male quando vede che la terra che incontra la vigna è così calorosa. Il calore delle vigne è sempre presente negli occhi poderosi e dritti di Fran, che in queste terre, sotto questo cielo, coltiva le vigne. Fran ha un sogno, smantellare la vigna e costruire il primo parco acquatico di Nuit Saint-Georges, che al posto dell'acqua usi il vino. Forza, ecco. Fran, distruggi la vigna, costruisci gli scivoli gioiosi, dai aria ai tuoi sogni. Purtroppo le leggi del mondo non si arrestano per far spazio alle bizzarrie di chi non ha di meglio da fare. Viva le leggi del mondo. Il parco acquatico col vino è economicamente un disastro. Costa troppo e fare il bagno nel vino fa schifo a tutti. È il fallimento di Fran, la sua sconfitta al fondo del suo barile. Giusto, così perfetto. Fran perde la vigna, perde il parco, perde la casa, perde la moglie, perde i figli e perde anche una lente a contatto. No, non ora, può vedere. Negli occhi di Fran, vispi ed esigenti, non c'è più la vigna, ma un parco giochi deserto e ambiguo, come le sue speranze sul futuro. No, Fran. Mentre una lacrima rotola sul suo viso, il cielo è accarezzato da un airone, attonito. Bella, bella, brava, brava, ma i soldi sono stati meglio spesi. Tutto sto investimento per la piscina del Colvino. Assolutamente, acquatico, è veramente questa fiammetta Ruiu si farà, è veramente brava. Angelo, non abbiamo menzionato Fabio Aru oggi, non abbiamo parlato di lui per niente, meglio no? Nel senso, sta coperto. Sì, sta tranquillo, c'ha la sua maglia Pua. E quindi... Speriamo di parlare di lui. Ah no, ma non diciamo niente. Scaramanti. Io invece, prima di chiudere, volevo salutare Fulvio Sanguigni, che è un ragazzo che segue Bidon. Ci ha mandato un messaggio diversi messaggi nelle scorse settimane, dicendoci che lui aveva gli esami di maturità quest'anno. Sì. E ha fatto una tesina sul ciclismo. Ah. Partendo da Contador, ha parlato del ciclismo come distruzione di barriere sociali, mentali e fisiche, la storia del ciclismo. E ci ha scritto stamattina dicendo che ha concluso l'esame, ha avuto il massimo dei voti e niente, volevamo salutarlo. Ha fatto 100. Bravo Filippo, Fulvio, giusto? Fulvio. Si chiama? Bravo Fulvio, complimenti. E complimenti a tutti quelli che hanno passato l'esame. Complimenti anche a chi non l'ha passato l'esame, perché comunque l'ha subito. E complimenti per chi anche oggi è stato 34 minuti ad ascoltarci in una tappa che non aveva nulla da dire. Siamo riusciti a intrattenervi, forse intrattenervi. Diciamo, complimenti anche a noi che abbiamo trovato cose poco interessanti, esatto, per 34 minuti. 34 minuti. Va bene, abbiamo concluso e vi diamo appuntamento a domani, sempre alle 11. Vi ricordo, noi siamo a Cagliari. Per chi volesse ci contatti, magari ci incontriamo, parliamo e dormiamo insieme durante il Tour de France. Se avete voglia, commentate il nostro video, partecipate. Mi sa che non hanno granché voglia, sti spettatori. Dovete avere voglia. Dovete averne. Comunque, buona giornata. Dai, salutiamoli con una bella frase emozionante. Sì. Dai. Restate col ciclismo che... Che comunque è bello. A domani. Bello in qualche modo. Ciao. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobet.